Salivo un tempo sopra i cieli, salivo un tempo e lo facevo in sella al vento. Vedevo i fiori ed i colori che ogni fiore in sé ne tiene cento. Ho visto il giallo rosso della primavera seguire il bianco giglio dell'inverno, e nel mio curiosare eterno ogni giorno un giorno ed ogni sera un'altra sera. E poi da sotto non vidi da dove di un colpo secco senti il fragore, senti un bruciore bruciarmi nel petto, e allora capì non avrei più volato. L'ultimo volo mi vide spacciato e fu un atterraggio perfetto. M'han restituito la bellezza, durerà perfino oltre i cent'anni. A quelle piume stanche abilmente han ridato la freschezza. Solo che adesso non volo più ed odio la mia bellezza. Se per averla qualcuno mi ha tolto la giovinezza. Solo che adesso non volo più ed odio la mia bellezza. Se per averla una canaglia mi ha riempito la pancia di paglia.